io premetto un autoritratto, cioè sono vegetariano dalla nascita, pacifista. Ho sempre pensato che per stare sulla Terra basterebbe una carta d'identità unica e quindi chiunque può e deve viaggiare per sopravvivere o per suo piacere o per sua curiosità lo potrebbe fare senza tutta questa ipocrisia sociale che ci circonda. Faccio le maschere a Bali dall'80, come in altre parti del mondo, sono al centro dell'isola, le persone che lavorano sono i ragazzi delle risaie e al tramonto, quando ne ho voglia, con loro passeggio raccogliendo forse 10, 11, 18, 20 sacchi di plastica ogni sera che buttano i turisti in mezzo all'acqua delle risaie. Ho fatto dei videoclip per loro, proprio per dar voce alle maschere. Tre mostri, si chiamano così, Ogogo, per il loro rito annuale nel luogo dei morti, viene dato in fiamme. Quindi, tornando a noi, quando sono stato invitato dal mio paese, dove avevo già donato le vetrate al Palazzo dei Capitani della Montagna, che non a caso rappresentano i capitani, secondo l'araldica delle famiglie che governarono le valli, sono le quattro stagioni, i quattro elementi, le quattro età, e il mio modo di procedere, cioè l'arte che io esprimo in bilico fra arte e vita, che è la mia straordinaria avventura, verte sul trovare degli appigli, degli alibi nel luogo dove io espongo ed esprimo la mia idea. In questo caso, essendo nato lì e tuttora vedendo la catena montuosa, anche con grande rispetto e ammirazione per l'opera del Gian Bologna, e non è un discorso di ambizione, ho fatto la statua dell'Appennino, che è un gigantesco tritone, dall'aspetto androgino, perché nella mitologia la mia simpatia va all'androginia, ma senza il grottesco che si circondano questi ideali, e così anche il fiume Reno, dove io sono andato più che fare dei bagni a passeggiare tanto tempo fa, quando ero adolescente, e il fauno che porta in spalla un cupido con le ali di farfalla. Io a Roma vivo allo studio del Canova, quindi anche il Canova rappresentò certe mitologie con le ali di farfalla, e il fiume Vergatello, il torrente che in alcuni periodi dell'anno è anche con pochissima acqua. E in un qualche modo è un forifero, come dire, il traghettatore, colui che trasporta e appunto viaggia nel mondo, come può essere nella mitologia a proposito cattolica San Cristoforo, oppure se si parla di immigrati, che questi personaggi di notevole disumanità fanno morire in mare, penso a Enea Anchise, il figliolo che porta in spalla il padre. Quindi tutta questa, come dire, delirio deculturale non è che mi sorprende più di tanto, mentre l'uovo è Montovolo, che fa parte della valle, si dice che era un luogo degli Etruschi, non a caso facevano le tombe a forma d'uovo. Vado a ruota libera, il serpente è un Ouroboros che non si mangia la coda ma se la bacia, ed è munito di tante bocche che buttano acqua. L'Ouroboros è un simbolo dell'infinito e così via, non so cosa dire. Ecco, nel fondo della vasca c'è un acciottolato che sembrano dei sassi di fiume, un marmo molto speciale, e mi sono ispirato al bellissimo libro di Gnoli su marmora romana. C'è le montagne, c'è Monte Vigese che ha forma di piramide, quindi sono degli enigmi, delle allegorie, delle iconologie di cui io esprimo da sempre, dalle prime mostre degli anni 60, ho scelto un linguaggio che avesse stimolo dall'archeologia, all'antichità, al moderno e al contemporaneo. Questa è la mia idea in arte, cioè di non giocare con la considerazione per tutta l'arte anche agli estremi opposti della mia idea. Io ho preferito fare un'arte che avesse un simulacro, un'immagine, una forma, che può anche creare dei dubbi, stimolare anche delle critiche, ma che comunque abbia una presenza che non necessariamente deve essere elogiata, ammirata o sedotta. Cioè, comunque c'è l'immagine, ecco perché crea tante, credo, agitazioni, rumori. Penso che queste persone abbiano bisogno, come succede da un po' di tempo, di combattimenti a perdere, dove non vince mai nessuno. C'è una specie di trionfo tonfo della volgarità, dell'arroganza. Io poi sono un autodidatta, quindi non lo so, vivo un'altra dimensione, tendo a una specie di, ma nemmeno surrealtà, c'è un desiderio dell'altrove. Cerco di esprimere un'arte che abbia degli elementi di fantasia proprio per non essere, come dire, troppo quotidiani, ecco, col privilegio della vita di un artista. Ecco, da artista, da persona che vive di cultura e di arte, diciamo, dell'arte e della cultura, ha fatto la propria vita. Secondo lei questo periodo storico è un periodo, che periodo è, diciamo, per la cultura e per l'arte? Un periodo in cui, al di là degli attacchi poi fascisti, neofascisti che ci sono stati, per cui le esprimo ancora una volta tutta la nostra solidarietà, ma persino un senatore come può essere Pillon, diciamo, incita poi a quest'odio, diciamo, e non lo condanna dopo. No, c'è un elemento che può essere una spiegazione anche troppo semplice. Intanto io ho vissuto già diversi scandali che però non ho né provocato, né progettato, né alimentato, li ho vissuti. Uno scandalo in particolare, non so se ve lo ricordate, è quando io fui invitato a una mostra a Milano agli inizi degli anni 90, ed era proprio il sorgere della Lega, e questa mia ceramica fatta virtuosamente con la collaborazione delle ceramiche Gatti a Faenza, dove da allora ancora esprimo e faccio diverse sculture, senza avvertirmi la misero in piazza Buenos Aires e fu beffeggiata da tutta questa comunità di ignorantoni che avevano messo vicino uno scatolone perché in modo che in questa rotonda si potevano nemmeno fermare dall'automobile, potevano scrivere, perché no, quello che volevano, buttandolo dentro questo scatolone. E il sindaco leghista di allora aveva messo un piatto con un panino, che a Roma la chiamano Rosetta o a Milano Michetta, secondo lui quello era il simbolo. Allora, questa coltivazione negativa dal punto di vista dell'arte contemporanea non è una novità, purtroppo. Io la vivo come eccezione, per modo di dire, sono fortunato. C'è un atteggiamento, se va bene, di, come dire, viene continuamente in risa, ma non per dei motivi ideologici. Tra l'altro io vorrei e sarei anche apolitico, con qualche complesso etico, ci gioco sopra. Allora, il problema è proprio che l'Italia, o questo ex bel paese, è talmente pieno di tesori, ma talmente ricco di tutto, di opere che possono essere chiese, monumenti, depositi di musei, eccetera, che l'arte contemporanea è sempre stata in risa. Cioè, basta guardare, c'è un documentario, lo sto dicendo in questi giorni, purtroppo, perché no, più volte. Fui invitato a vedere un documentario pochi anni fa che era un montaggio di quei pochi minuti. In questi giorni anche c'è la Biennale di Venezia, all'epoca era il film Luce, quindi andava dalle origini, da quando ancora c'era il re, poi i fascisti, poi gli altri, fino al 68, tutti questi pochi minuti, ogni 2 anni venivano tirati in giro gli artisti, sia che fossero De Chirico, sia che fosse Fontana o la merda di Manzoni, che è il caso limite. Cioè, Manzoni è riuscito a mettere in crisi l'idea dell'arte, in quanto questa sua scatola ha raggiunto il massimo di valore proprio per mettere in discussione la banalità con cui viene trattata l'arte contemporanea. Allora, in questa mia divagazione non vorrei sembrare un martire, ne sono consapevole. Allora, invece, nel caso specifico, con la grande passione, la dedizione che hanno messo i Vergatesi, questa storia è stata ideata 13-16 anni fa, ha avuto dei momenti di stasi, poi è stata ripresa, io sono stato disponibile all'avventura e mi sono limitato, come dicevo, a guardarmi attorno e fare un vero monumento che avesse l'aspetto, la presenza, anche il piacere di vedere zampillare una fontana. Quindi loro, anche in questi giorni, ho visto che hanno difeso, io sono a Roma, ma mi hanno mandato, non so cosa dire, c'è una schizofrenia fra persone che hanno il coraggio di esprimere la loro tracotanza, arroganza, ignoranza, ed altri che hanno anche la semplicità di credere a qualcosa. Io non sono assolutamente ostile a, per dire, sono molto affascinato dai riti, dalle cerimonie, sia che sia magia, religione, superstiziosa. In questo senso non vorrei esprimere un'ambiguità, è che non ho ostilità, non vedo perché dovrei averle. Sono molto deluso quando, appunto, come dicevo poc'anzi, queste sarebbero le occasioni per fare esprimere i veri storici dell'arte, che se ne stanno riservati e nascosti nei loro studi, ecco.